America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. И уже после их завершения пришло известие о том, что John Kerry сделал заявление. Sergei Lavrov, il ministro degli esteri russo, ha già inviato un documento, sembra, alla delegazione americana per poter avere una base negoziale oggi a Ginevra, dove si incontrerà con il segretario di Stato John Kerry. Dunque il dialogo russo-americano procede e lo stesso John Kerry ha espresso così grande ottimismo sulla possibilità che si possa davvero concludere qualcosa dal punto di vista di un accordo per il disarmo chimico della Siria. We're waiting for that proposal, but we're not waiting for long. E avete sentito il segretario di Stato Kerry che dice sì, ovviamente l'America è pronta, ma con verifiche. Beh, mi sembra di ricordare quello che diceva Ronald Reagan: trust but verify, fidati ma verifica. Qual è il problema americano? Il problema americano è che forse con questa apertura per la consegna delle armi chimiche, per inviare gli ispettori, per poterle poi distruggere, la Siria e la Russia vogliono soltanto guadagnare tempo per poi magari non concludere un bel nulla dal punto di vista concreto. Questa è una forte preoccupazione degli americani. E dunque Kerry dice: noi vogliamo vedere il documento, vogliamo vedere le proposte concrete, vogliamo che tutto avvenga con rapidità e nel contesto ovviamente a questo punto internazionale, ma con delle tappe ben precise. Finora le tappe ci sono state, perché se pensate come dopo il G20 il dialogo a distanza fra Russia e Stati Uniti è avanzato progressivamente e sulla base di messaggi che i due paesi avevano deciso di darsi per poter verificare appunto la buona fede dell'uno e dell'altro. L'ultimo messaggio è venuto dal presidente Barack Obama nel discorso alla nazione americana, quando ha detto che avrebbe chiesto ai deputati e senatori di rimandare il voto. Questa era una richiesta precisa di Vladimir Putin: rimandate il voto, non parliamo più di forza e noi vi aiuteremo. E subito dopo c'è stata la convocazione di questo incontro di Ginevra, un incontro di Ginevra che sul piano simbolico è molto importante, perché se nel breve termine riguarda soprattutto questo sviluppo per il disarmo chimico della Siria, come farlo, come scrivere la risoluzione da portare alle Nazioni Unite, che tipo di metodologia utilizzare, in che tempi, dall'altra in qualche modo getta le fondamenta per riaprire il dialogo più di medio termine per una soluzione politica in Siria. Ricordiamolo, il processo di Ginevra coinvolgeva Russia, Stati Uniti ed altri paesi e doveva proprio raggiungere quell'obiettivo, ma a maggio poi non si era fatto nulla. Кстати говоря, этот вопрос многократно уже обсуждался экспертами и политиками. Вопрос о постановке. L'ho visto qualche giorno fa alla fine del G20 in conferenza stampa. Freddo, glaciale, determinato, lucido Putin è riuscito ad ottenere un grandissimo successo. Vorrei tornare un momento indietro. Il dubbio di fondo riguarda i tempi di questa operazione di disarmo chimico siriano. Sappiamo che dovrebbero essere inviati degli ispettori, questi ispettori dovranno avere una protezione militare. Qualcuno dice che identificare questa enorme quantità di armi chimiche, che è disseminata tra l'altro in una gran quantità di impianti diversi, potrebbe richiedere forse un anno, forse due, dopodiché prelevarla, caricarla su dei camion, trasportarla nei luoghi predestinati, distruggerla. Insomma, l'operazione è straordinariamente complessa sul piano militare, logistico, della sicurezza, e potrebbe in effetti prendere molto tempo. Ma se andrà avanti e se si raggiungerà davvero l'obiettivo finale, il vero vincitore di questa operazione finirà per essere Vladimir Putin, che ieri ha scritto una lettera al New York Times, ieri 11 settembre tra l'altro, quindi anche sul piano simbolico manda un messaggio rilevante, in cui dice all'America di smetterla di continuare a intervenire negli affari interni di altri paesi. Esistono le Nazioni Unite, dobbiamo rafforzare le Nazioni Unite, abbiamo avviato un processo e dunque seguiamolo. C'è un Consiglio di sicurezza dell'ONU e nel contesto di questo Consiglio di sicurezza potremmo fare quello che si deve fare: raggiungere obiettivi di pace in un contesto multilaterale e non attraverso attacchi unilaterali. La lettera di Putin o l'articolo di Putin, si chiude poi con quello che sul piano della comunicazione, secondo me, è un colpo di genio, perché Putin attacca l'eccezionalismo americano di cui parlava nel suo discorso Barack Obama e dice: attenzione a dire che un paese, un popolo è eccezionale, perché si potrebbe inviare con questo un messaggio sbagliato. Ricordiamoci, dice Putin, che siamo popoli diversi, paesi diversi, abbiamo istituzioni diverse, storie diverse, eppure nel momento in cui ci appelliamo a Dio siamo tutti uguali. E quindi Putin che scavalca Obama, che aveva chiuso quel suo discorso con God bless America, che è l'appello con cui chiudono tutti i presidenti americani un loro intervento pubblico, lo scavalca anche addirittura sul fronte religioso. Ma io con me ai microfoni di America 24, Franco Venturini, editorialista del Corriere della Sera, grande esperto di Russia, che ha intervistato Vladimir Putin ben due volte. Buongiorno Franco. Buongiorno Mario. Putin parla di Dio. Ecco, c'è una vittoria mediatica in questa vicenda siriana, G20, disarmo chimico da parte del presidente russo? Che dici? Sì, non è nuovo il fatto che Putin parli di Dio, ma è nuovo quando si rivolge agli americani, che sono proprio il paese dove maggiormente si parla di Dio. E indubbiamente il motivo è che Putin è il protagonista del momento. La Russia ha avuto i tempi giusti, la diplomazia giusta per rinviare perlomeno l'attacco annunciato da Obama. Direi soltanto che bisogna aggiungere una cosa, che Putin naturalmente sfrutta questo momento di protagonismo, ma dietro di lui c'è il vero artefice tessitore del successo russo momentaneo, che è un armeno con il cognome cambiato che si chiama Lavrov e che è anche un po' americano perché è stato molti anni ambasciatore all'ONU. Ecco, questo oggi spiega forse l'abilità mediatica dei russi in questo momento. Ecco, oggi Lavrov si incontra a Ginevra con Kerry, lo dicevo prima, parte questo negoziato, si cerca di dare concretezza alle parole. Trust but verify, diceva Reagan. Ecco, c'è da fidarsi dei russi? Ma in questo momento aveva ragione Reagan, tutto va verificato. Va verificato soprattutto da parte americana cosa deciderà il Congresso. Io credo che questo incontro, che poi durerà, pare, fino a sabato, sarà sì uno scambio di informazione, ma sarà utile ad entrambe le parti per guadagnare tempo, perché Obama ha già rinviato e ritardato il voto del Congresso e intende far votare il Congresso su una mozione diversa che comprenda questa possibilità diplomatica. I russi, più dura il rinvio dell'attacco americano e più sono contenti, perché più dimostrano che loro hanno avuto un'influenza. Non è detto che tutto finisca bene o male a seconda dei punti di vista, che non si torni al punto di partenza, però adesso la diplomazia fa comodo a tutti e due. Secondo te la Russia avrebbe reagito o mediato come ha mediato se non ci fosse stata questa forte escalation americana, questo pericolo di un attacco militare? Cioè ha vinto l'Obama debole e Putin ha reagito, o viceversa? No, direi che l'Obama debole e in particolare quella mezza gaffe di Kerry a Londra, che hanno dato alla Russia l'opportunità di mediare, e Lavrov è stato velocissimo a coglierla. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Soprattutto mandatemi i vostri commenti su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, continua la speranza per una soluzione diplomatica alla questione delle armi chimiche. Vi dicevo, oggi a Ginevra si incontrano Lavrov e il segretario di Stato Kerry. L'ipotesi di un attacco è più lontana, ma ci dobbiamo domandare se questo trust but verify, quindi abbi fede ma abbi fiducia ma verifica, funzionerà, se le verifiche ci saranno e se non si continuerà a soffiare nel vento, come diceva una vecchia canzone che vi propongo, di Bob Dylan, Blowing in the Wind. Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend,